mi sei mai, grazie. Eccomi, cazzo che freddo, Ecco, questo è un, diciamo, una dimostrazione di una persona che c'ha la sua stione in casa, e addirittura la sala radio. E questa non è una stazione è la tua, che hai quello della cucca. Capito? Quelle sono stazioni radio, perché tu c'hai il tuo posto fisso e poi ce l'hai chiuso. Questa non sarà radio. Perché di cosa stavate parlando? No, di posto per mettere le radio, no, che bisognerebbe avere una camera a parte, proprio come ce l'hai tu, dedicare, diciamo, il tempo libero, però diciamo che così ti isoli un po' anche dalla famiglia, capito? E quello lì è. Invece io ho trovato il modo dove praticamente in camera passa mia moglie, viene mio figlio, capito? Tutto quanto. Quando c'è la sala radio, chiudessi la porta e via. No, la porta è sempre aperta qua. Se il televisore è quello del salone, c'è il cane che va e viene. No, la porta c'è, non la chiudo mai io la porta. A meno che non ci sia il televisore alto, allora sempre spalancata la porta, finestra aperta. Va bene. Non c'è problema. Se c'è il giorno a portare il cane, è freddo, Non è una bella giornata già. Perlomeno qua in montagna c'è freddo. No, è anche qua così, io sono qua in via Rockefeller. Ed è così pioggiosa la giornata. Ma quando mi sono alzato c'era il sole là. Infatti ho detto a mia moglie, io che andiamo a farci un po' di foto, se ne scendiamo a sentire in moto, ci facciamo un giro in moto e allo stesso tempo ci facciamo qualche fotografia. E eravamo già d'accordo ad andare, invece sempre così, ma da chi siamo tornati a visto l'assicurazione, tutto quanto, l'ho riattivata e non sono riuscito ancora a vedere, ho avuto il modo di andare a mettergli la ruota che ci voleva dietro e farli tagliando, da lì non ho più mosso. E io adesso questo ultimo venerdì, quell'altra la lascio ancora ferma. Domani porto il cinquantino a un cinquantino o teatro tipo Liberty, lo porto da Luca che mi fa il carburatore, mi cambia la candela, mi fa un po' di manutenzione e poi uso quello in città ancora, perché non mi fido con quello là. Ti stavo dicendo che ma quello di Laria è quello. E io? Ma ce l'ha ancora, io pensavo l'avessi venduto, la stavo vendendo se non sbaglio. Ha venduto e ce n'ha comprato un altro. Qual era il grigio? Questo è nero. E allora Luca mi dice, stavamo parlando, perché quando l'ho fermato, l'ultima volta che l'ho usato, si affogava, capito? Poi non partiva bene. E allora ho detto a Luca, metto che sicuramente c'era pure il filtro del carburatore, fare un po' di manutenzione, prendiamo la candela. Eppure c'è ancora le strozzature, figurati, oppure togliere le strozzature. 2010 poi l'ha comprato, sono 2009-2010, non mi ricordo, e lo uso in città, sì, e anche lì lo stesso, ho preso la circolazione, gli ho mandato in moto e si affugava, fanculo. Ma scocca di assicurazione non paghi più di quello lì che dell'altro? 100 euro in più. Perché non conviene avere 50, mi fanno pagare di più. Forse perché gli rubano di più, non lo so com'è, una storia. Se metti come va a farti l'altro, e a me lo stesso, io sono stato tutto l'inverno, non ho staccato la batteria e andavo ogni domenica, la mettevo in moto e partivo dal primo colpo, decido di prenderla quando ho fatto l'assicurazione, vado a metterla in moto, e niente. Ho dovuto fare la batteria della macchina, attaccare la batteria della macchina e metterla in moto così, poi già si è ripresa. E che te l'ho pagata l'anno scorso? Ma l'ho presa Eugenio a Porto Torres, di ingresso in via di Porto Torres, che c'è quello elettrato, di quello prende batterie per moto. Ed è il meno caro di tutti, capito? Cazzo c'è lì, Aldo ne vuole. 60 euro e lì l'ho pagata 35 euro mi pare, quindi non mi si è nascosto la batteria. No, l'altra è assicurata, l'altra tutto l'anno è assicurata, quella va da gennaio a dicembre, non c'è problema, solo che così in queste condizioni non mi fido, capito, perché quella lì cammina più piano, mi sposto qua in città, è più maneggevole, non va male l'occhio già, il problema sai qual è, che quando sono coricato vedo benissimo, certo quando mi alzo vedo tutto nebbia. Ma sai come c'è la valere qui? Coricato sì, se sono sdraiato che apro l'occhio vedo bene, vedo, quando invece sono in piedi vedo tutto nebbia. Perché probabilmente levato mai sotto là, e guardando verso l'alto quello lì deve essere il problema. Tu come ti alzi levato, ma essendo sotto ti impedisce di vedere, come invece guardi verso l'alto vedi. Ma allora è un buon segno, se vedi così coricato vuol dire che si sta riprendendo l'occhio, altro che non è così grave come pensi tu da. Comunque se vuoi così non li fare prendere aria, non ci andare in moto ancora, non devi vabbigliare di aria ancora. No, ma infatti è giusto così per fare, per andare a Piazza del Segno, prendiamo un caffè per non stare a prendere la macchina, perché già va di macchina qua vicino, capito, sono le farmacie a Piazza del Segno, però non mi fido, infatti quando scendo giù a portare il cane mi metto la benda, capito? C'è una benda, mi hanno fatto all'ospedale proprio per prendere aria. Io che rotture di balle, per carità, va bene. Sì, io sono convinto che piove oggi. Ma guarda, se tu sali verso Piazza dei Segni, un bel grigio, proprio grigio scuro, si vede che sta minacciando acqua. Diciamo che quando si tratta di avere qualche festa è sempre così, non si può mai fare nulla. Noi l'altro giorno siamo andati a Sant'Antonio di Cosa, di U, e ci ha lasciato arrostire, mangiare, abbiamo mangiato tranquillamente, poi ha cominciato qualche goccia, abbiamo ritirato tutto, abbiamo preso i tavolini, le sedie, tutto quanto, e ci siamo messi sotto una tettoia che c'è grande, c'è una tettoia con l'armento, ma una tettoia sarà un 200 metri quadri lunga, non so perché cosa, forse non è stata mai finita, forse la dovevamo utilizzare per qualcosa o per fare qualche festa campestre, non lo so. Beh, fatto sta che siamo stati lì parlando, come ha smesso di piovere, siamo usciti e ci siamo fatti un po' di lumacconi. Comunque mi sono informato da quello di Uri, da quel mio amico di Uri, mi ha detto che a Uri non ce n'è di blocco. Allora c'è la Ussi, che un paio d'anni fa hanno messo Ussi, Uri, Tissi, Uri, Usi, Tissi e Ussi, perché c'erano i colleghi, ho capito, me l'avevamo detto loro, forse hanno messo solo la Ussi, vabbè, un buon segno, a tutti i dinni, di là. Beh, me la vale per terra, non ve scritto di valuci fuori, non venuto da là. Si corica sotto il tavolino, cazzo, rimane lì tutto il giorno, non ci muove da un chifi. Ci sono le cani, cazzo. E beh, Luca. La prossima volta che scendi giù, me lo dici così, vengo a fare un po' di foto. No, sai cosa mi ha detto? Non c'è nessun blocco, però, già, mi raccomando, non fai la ragione, nel senso che c'è molta gente che piglia pure che si bocchi mudi, quello lì non va bene, quello lì si incazzano anche i paesani se ti vedo, quindi se tu li raccogli quelli buoni, quelli con il guscio duro va bene, ma quelli te io pochi mudi non li raccoglio, tanto poi va a finire che vai a mangiare e ti mangi la buccia perché si rompe, non, oltre che perché se no perché poi va in estinzione e si incavola, i paesani stesso ti dicono cosa. No, quelli praticamente bocchi muti non li puoi bigliare. Vieni qua, vieni. Ho preso a chiacchierare 2 anni nell'aria. Deve essere un bel bello quel cane. a me piaceva molto, quando l'ho visto la prima volta quel cane mi ha innamorato sia quello che Ciucciu, come si chiama, mi piacciono troppo quei due cani lì, quello con Ciucciu è troppo bello, eh. Adesso già fa troppo ridere. Coppia che adesso non stanno più insieme a Porto Torres, che ce l'avevano, ne avevano due, qua che lui fa l'autista, che guida il camion, si chiama, lasciami pensare, quello di Corso Bor, Demetrio. Demetrio, mi pare che ho capito che, no, questi sono che sono qua, già arrivano al continente, non ce n'è allevamento di questi cani qua, capito? Anche perché costano una barca di soldi, costano una barca di soldi. Allora, se lo volevi praticamente vieni qua, vieni. Lui è un bel affettuoso, non abbaccia nulla, no? Lui dorme e mangia, figlio, allora, sotto la sedia si siede. Se lo vuoi a 3 mesi lo paghi 1800 euro, se invece lo vuoi già diciamo un po' adulto come questo già sta entrando nel settimo mese, 6 mesi, a 6 mesi me l'hanno dato, allora 1000 euro, capito? E il colore non è che sia adulto, è un cucciolone, mica non è che sia a 3 mesi il cucciolo, quello è un cucciolone, però è sempre giugassato ancora, non è adulto, va, ancora gli piace a giugare. No, questi ai 3 anni iniziano a... sono sceso giù e sto pieno di gatti, ma con i caga, cioè non gliene frega niente a lui, fa la sua vita proprio, è un... sono dei cani, anche il Carlino, questo, il dog francese, il dog inglese, no, vieni qua, sto andando dietro il computer, ce l'ho qua in stanza che sta passando la spirapolvere d'aria, se no sta in mezzo alle balle, però vedi, vuole uscire, prendi l'aria, hai capito, già è bravo e risponde a tutti, però come ti intende la volta di l'aria, come si offende, cazzo, offende, si boccia, abbaccia lo capo e non trovai da più. Raffaele, non è, io mi ricordo quello che avevo io, mi avevo trovato proprio a Porto Torres, a Ponte Romana, vicino a via Ponte Romana. Era una giornata di grandine, ma grandine baromi. E ho visto questo cucciolo che sembrava un batuffo di cotone, bianco bianco, e con la codina arricciata dietro come il maiale. mi è piaciuto, un bottino, c'era proprio bottino era. Era bianco, col pelo lungo, il muso allungato. L'ho aperto del furgone e poi se ne è salito da solo. Che cosa facevi? Ce lo mandavi via. L'ho preso e l'ho portato a casa. La moglie, che bello, però non lo possiamo tenere già, io sono incinta, questa e quella. E te va bene, cosa ti fa? Beh, questo cane, Liliana era 9 mesi, incinta, ci invitano a casa di quest'amico mio a mangiare, ti prego, c'è Liliana che sta un momento all'altro. E beh, cosa ha fatto? Non c'è la macchina, se sta per partire io prendi la porta. Beh, allora sai che il cane faccia, gli spregava la testa già, che macchina ha portato all'ospedale, macchina tutta la notte, fino a quando è nata la bambina, poi siamo andati a casa, l'ho portato a casa, gli ho dato da mangiare e tutto, ma per dire, il cane si è accorto che doveva nascere, te li mangi? Sì, sono micidiale. Questo lo stesso non ne ha coda, cioè le orecchie ce le ha piccole, ma le ha dritte solo a punta, ne hanno coda come il bulldog, no? Infatti questo è un bulldog inglese, vicino alla porta esistente a Bredaiana che vuole andare in aria. E tu quindi giro, sì, e poi c'era Gabrino a Sasso e detto insegno, ma no, non ce la faccio a stare in giro la sera, se non sei uscito ieri sera. C'ero io con Gabrino con la ragazza ieri sera. Sono andato a farmi un giro, li ho visti, mi hanno chiamato e mi sono avvicinato. Scappa. Ma io il ragazzo in gamba, fa piacere. Io beh, conosco tutta la famiglia, conosco il padre molto bene. Siamo coetanei, conoscevo tutta la famiglia. Lui no, magari l'ho visto, però non lo conosco. Non lo so. Infatti non è questa sera che assassa di cui passare qua. Visto che sono a casa. Ieri c'era un po' di gente, quindi non gli ho detto niente, ma quando risale gli ho dico di venire qua a trovarmi. Vabbè. Io te l'ho detto, l'ho conosciuto a Portottore e l'ho vogliato io entrare in frequenza. Ma lo usavo ogni tanto quando ci va in barca con i colleghi, eccetera. E tu perché non entri? La sosta lì siamo sempre frequenti, ci siamo tutti i giorni, ma davvero, sì, ha pigliato il guppardo tutto, e dopo un giorno, forse la sera se l'ho sentito modulando. Sì, no, io magari l'ho sentito qualche volta, ma dalla barca, non lo so, però non lo conosco, non lo so chi è. C'era anche Antonio per lì in piazza del Segno. E Antonio come è andato e stava arrivando lui? Ma è andato quando lui ha telefonato che stava arrivando, ma è andato io. Perché non voglio, magari avevamo qualcosa da fare, non voglio essere in mezzo ai pidani. Sono andato via. Però mi sono trattenuto un bel po' di tempo e con loro. Via. Che vagava. Sono delle cose in mezzo, non fa. No, è salito a ritirarsi quell'antenna, taratela poi. Quella, cavolo, l'ho guardata io, lì da zero di stazionarie, senza lineare, con lineare lì da 1 e 2. Va benissimo, più bene così muore. Dalla grande, se arrivava più di 9 arrivava lì punti da Giulio. Sì, è un'antenna buona se sembra di dubbio, ma ieri ce l'avevo piazzata in macchina, ho soltanto di sera ieri. Ce l'avevo piazzata perché in questi giorni ho fatto qualche DX, volando, facendo c'era la propagazione e mi stavo divertendo. Ieri diciamo, ma torniamo da Eurospina a comprare due fesserie e il caffè che si è dimenticata e un'altra cosa se non mi ricordo. C'è una tettoia lì, quello che c'è vicino alla Luna e Sole, là. C'è una tettoia, uno scheletro di ferro e di alluminio. Non l'ho vista a casa, c'è stato fatto, me ne sono sceso. Pensavo che fosse qualche filo della partecipazione, mi sono cagato sotto. Invece uno che era questa tettoia e aveva toccato l'antenna. Da lì mi ha fatto pensare, tutt'altro l'altro va bene, chi me lo fa fare mettere quella lunga quando quella piccola va bene lo stesso? E allora gli ho ripiazzato quella sua. Quella corta? No, quella corta va bene. E adesso c'ho quella corta per lì. No, va benissimo. Alla grande. Quella corta va benissimo alla grande, non ci sono problemi. Una stazionaria è meno ingombrante, poi magari se sei in qualche zona d'ombra che sei fermo, allora per guadagnare di più ci metti quella piccolina. La grande. Cappa, avanti, chiaro davvero. Non ci vediamo, Non becca voi bugnè. Vabbè, buongiorno. E allora, com'è? Brutta la giornata, ma ci vediamo, buongiorno. Sì, al gioco che frega. Sono entrato alle 7. E vabbè. Già va bene lo stesso, tanto non dobbiamo fare niente, ma si lavora, quindi chi se ne frega. Per me può anche piovere. Vabbè. fotografia, eravamo già preparati per la remoto, invece ha girato, perché presto c'era il sole, non so se vicino a casa tua c'era, ma vicino a casa c'era il sole. Positivo. C'è un po' di propagazione, ci sono proprio al limite di propagazione, no? Pagappa. Bravo, guardato me quel bulldog inglese, la genizzente con le orecchie a punta, e quello marrone e bianco, là già proprio lì. Sì, sì, fatto anche il bidet. E tu sono a punta, ma non tira su, non sono rotonde, sono a punta. Cosa ti posso dire, come ha fatto la tedesca? Voi rimangono scese, si sì, solleva leggermente, ma è il tipo di cane così, non è come ha fatto la tedesca, appunta così, no? No, ma non ce li ha grandi, come hai detto tu quello là. Ce li ha normali, però sono a punta, dai. No, sono squadrate, capito? Rimanemi a coglio, rimanemi a come si chiama? A ventaglia. E a capo di bugnetta rimane. Va bene, va bene. Andrà bene. Non c'è già che ti sono al limite. Sono il garoccofolle del mese di fare il palazzo. Positivo. Va bene, va bene. Insomma, non già vai in via Rocchefelle, grazie per via Rocchefelle, sì. Adesso che c'è qualche altra casa lì. Evidentemente c'è qualche collega, qualche amico. Ho un'amica, perché? Un'amica? Va bene, ma non sei il tipo tu da fare queste cose, sei molto fedele. Ho accompagnato mia moglie qua, che lavora qua, mia moglie. Quindi l'ho accompagnata perché doveva portare roba. Dopo. Via Rocchefelle, giù, ma c'è l'ospedale. Dalla parte dove c'è la casa, quella persona che conosciamo. Ah, ho capito. E c'è la Kobe, lì dietro. Ho capito. Bene. Chi la macchina non vi dà? Ah, vabbè, l'hai voluta accompagnare tu, siamo già fatto la macchina sua. Se dovevo andare a fare delle foto, adesso se sta uscendo di nuovo il sole, mi No, già, ma non ti fidare, perché non... perlomeno da quassù non mi piace per niente a me la giornata, ma proprio per niente. Per niente. Poi, non lo so, lì, però da quassù non mi piace. Lì com'è dalla parte tua, Massimiliano? È nuvoloso, c'è un po' di vento, capito? È nuvoloso con un po' di vento, ma insomma non è che sia bruttissimo, ma per fare foto non è la giornata ideale secondo me. Però diciamo che vento grande sta di meglio, no? Mamma che passi, dopo mezzogiorno riesco a prendermi un caffè, qualcosa qua, piazza dei 16 aperto, se non mi devo un giornale, sei cibo, non lo so. E allora poi, e poi a casa, stasera c'era la Juve, e ieri mi ho visto Atletico Madrid e Chelsea, che 3-1 ha perso il 10. Mourinho, vamos alla playa, quindi finale di Champion, Real Madrid e Atletico Madrid. Hai preso tutti e due. E adesso vediamo Europa League. La Juve deve vincere 1-0. Stasera c'è la semifinale. La semifinale. Vediamo cosa succede. Io ho quei libri, capito? Stamattina sono andato a prendere quei libri. Grazie a Bogotà. Quando uno va a scuola deve studiare se vuole arrivare a un obiettivo, no? Quindi datti una mossa, magari quando sali qua portati, che ti faccio vedere, ti segno le pagine più, non c'è bisogno di studiarlo tutto, ti segno le pagine più interessanti, te l'ho detto. Ascolta, quello dei quiz ti dato tra. Il manuale degli esami e poi radiotecnica per radioamatori, uno quello è con la copertina verde e l'altro c'è disegnata la radio sopra. Ho piccolo manuale per l'esame, quello sono i quiz, se fai un po' di quelli inizia a metterti in gioco e poi piano piano quando vieni qua magari lo porti e ti segno le pagine, quello che devi studiare è proprio studiare gli altri e basta che hai un'idea di quello che stai facendo, ma ci sono alcune pagine che devi studiarle davvero, capito? Altrimenti è un casino. Sì, positivo. E comunque ce n'è. Me l'ho sfogliato poco fa. Già ce n'è da studiare. Però ci proviamo a ottobre, vediamo un po'. Bisogna provare, iniziare a conoscere, provare, tentare, vedere, non succede niente, e si fa, capito? Molti intelligentoni non ci hanno fatto la prima, quindi sono andati alla seconda, chi alla terza, perciò non è che è così. Si inizia a metterti in gioco e poi si vedrà il risultato, non c'è problema. Avanti doppio rum, dove sei? Sempre lì inchiodato. E allora, dove sei? Lo scialami i denti. E vabbè, 2 minuti, non c'è problema. Cosa? Non di fa nulla intanto. Però questa è andata. Avrei visto come lo conseguire in altro all'alimentatore che sono dietro. Oh yeah. E da quando ce l'hai qua? Poi un giorno è arrivato avanti ieri, aereo, da Milano. Ma è subito, si è affezionato, gli ambientato subito. Sono già preparati, per quello ti danno, capito? Sono già preparati da appartamento proprio, no? Ti sto dicendo che come che non ci sia, niente. Ci sono dei cani che stanno molto al caldo, mangiano una volta al giorno perché sennò diventano dei maiali. Questo ha portato al veterinario perché partecipare. Quello di Mario partecipa. Questo adesso lo prepariamo. Sì, ambientato subito. È già giroso, figurati. Adesso è richiuso qua con me, con la porta chiusa. Siccome lui deve uscire fuori, che deve andare un salone a rompere le balle, allora è la Ianna, non si muove la Ianna. Vieni qua, Filippo. La massa che te ne varia. Cazzo di albero. Quello è dove vuoi, va. E vabbè, è una compagnia, a me. Non c'è che dire. Ma quello... quello se lo scrive alle mostre, roba del genere, che inizia a metterlo un pochettino in linea, quel cane potrebbe anche portare un po' di soldi a casa, mi sa. Tu non l'hai visto, non vedi, mi dice sei in linea. Arrivano già pronti, ma è un bel muscoloso. Tu vedi quando si punta, c'ha una bella corporatura, poi l'ha comprato il veterinario, ho detto va là, che non ha di... è solo nella faccia, un po' della schiena, mi sono ciupito, sennò tutto muscolo, zitto, figlio. Figlio, adesso è un bello. Attorniamo alla rigoto, un po' di goglio. Ma è bello, dietro è bello snello, non è ciccione, è bello proprio le zampe, belle, no, belli grossi. Sono una bella procuratura, Filippo. Lo chiamiamo Filippo Marti. Filippo. È strano comunque, Cla, che già 6 mesi così te l'abbiamo mandato senza il microchip, quello dovrebbe essere, credo, già microchippato anche, con tanto della sua sigla nel suo tesserino, come te lo chiamava, nel suo libretto. Strano è che non te l'abbiano mandato già così microchippato. No, c'ha il tessino sanitario con la targhettina del numero e tutta la di quando è nato, eccetera, eccetera. C'era già la targhettina, però il microchip l'ho messo qua nel posto dove lui vive, perché va registrato col microchip, va registrato dove lui viene, capito? Infatti, quando noi l'abbiamo ordinato da adesso, sì, a 3 mesi mi ha detto, se glielo mandiamo adesso glielo mettiamo noi il microchip, altrimenti al 6° mese glielo mettete voi. Infatti mi hanno messo ieri erano qua dal veterinario in via Vanno Abbasso, Abruzzo, abbiamo messo il microchip. Il microchip è il coso, la catenina con la targhetta e il numero. L'altro invece è quello che c'è a Mario, cosa è? Quello è un... lo chiamano presa canario, però si chiama, la parola esatta è cazzo non me la metto, comunque canario, presa canario, è più grande del mastino napoletano, alto e grosso almeno, alto sicuramente di 20 centimetri, sicuramente. Grosso più o meno come il mastino napoletano, però c'ha la testa, no barrevarato, c'ha la testa un bel grande come il coso. Vieni qua, Filippo, grazie di avere dovuto piccolare con pugno a capo. Ma capito hai qual è? Non ho capito. Aspetta un attimo. Aspetta che faccio vedere l'aria. Canario sì c'è, però c'è un inizio del nome diverso. No. Devo dire l'aria. Comunque è un bel grande. È più grande del mastino napoletano. È un bel doppio. Ehi, a me viene delusione, no? Facevo un bel salire. Non lo sai. Io non sono andato alle 7 stamattina. Alle 7. Non ce la facevo a stare a letto. Ho acceso un po' la radio. Cosa vuoi? Cosa c'è? O figlio, e cazzo, te ce l'hai già fatto? Io ho sentito Salvatore che è entrato in 7.000, ma c'era casino, gli ha detto chiaramente che era entrato per entrare in radio, ma ha visto che c'è tutto questo macello, che c'era uno che stava rompendo le scatole, che se ne andava e girava nelle altre frequenze, salutava tutti e se ne andava. Ah. 7080. Però non faccio questo, che ti mette appresso tutte le frequenze, mette la messa, la musica, fate un casino di Gesù Cristo, è una vergogna totale questo. Bah, io sto partendo. Oh, bravo. E via. Allora, è un dogo preso a Canario, l'ho guardato adesso, già un bel cane, no? È come che un pitbull raddoppiato di 4 volte. Esatto, dogo preso a Canario, sì. Hai visto quanto è maduro? È grosso, un bel grosso, bello. Forse per quel tipo di cane ci vuole anche l'assicurazione, credo. Sì. Beh, quello sta a casa, però loro hanno un giardino, e quindi, però è bravissimo, non è quello lì, lo stesso fa le mostre fuori, non ha nessun problema, non è un cane aggressivo. Se si gira deve fare la bubù, soprattutto quei cani piccoli, ogni volta che ve la guidate ve lo porta lì vicino a casa, no? E lui li evita, perché il cazzo usa di volta, e mi deve dare lì, quindi li evita, si accorge quando deve veramente girarsi o no, però figurati che la teoria si incazza perché è troppo bravo, per essere un cane del genere è troppo bravo, cioè non reagisce a niente, capito? Tu non mi li accolpi così giocando, niente, non ti si gira manco a morire, è peggio di lì. Però quello lì a primo impatto, come te lo vedi davanti, cioè effettivamente ti mette un po' di paura, la verità, perché ti vedi arrivare un cane del genere davanti, anche se può essere bravo, magari sta venendo per farti le feste, però uno, per chi non lo conosce, la presenza sua, capito, fa paura. Signore che fa paura, signor Gano, lui che fa paura, questo no, questo è un cane da letta, vedi, questo si appoggia qua, la poltrona, mi appoggia la testa, cazzo la lunga bucata di un guru mio, ma a me, per il cane, te lo metti lì, c'è la radio, dopo che c'è la ciclette, e te la puoi lì. Ah, che lui deve girare per le stanze, poverino. Stamani alle 7, cazzo, mi sono alzato, stavo girando, c'era la porta aperta della camera di aria, è entrata dentro, e la posso conseguire vicino al bordo del letto, e tu vieni qua che la svegli. Allora poi sono fatta a me la giocata della Iana. È un guancione, cos'è? Ma è proprio uno di quei cani da casa. La vicina Ragnana è contenta e non si sposta perché vuole entrare. Va bene. Gianni? Eia, a Monserrato sono. A Monserrato? Tanto che era uno si chiamava Monserrato. A Monserrato, adesso vado, faccio le fotografie agli sposi e me ne torno. Che cosa c'è, matrimonio? No, ce ne facciamo noi qualche fotografia e poi ce ne torniamo a casa. Tanto andare fuori adesso non fa, che tanto. Che ore sono? Sei 10:30. Ma poi ti ho detto, guarda, è brutto, vieni vicino a casa, vieni. Monello. Io scendo di nuovo qua giù, ma poi assieme che dopo mezzogiorno prendo la macchina, salgo a Piazza Vecchia, mi porto il cane, faccio fare una passeggiatina di Piazza Vecchia. Oh, sembra, figurati, ho Massimiliano, che di quanto sono già addestrati, nel senso che arrivano proprio da questo, eccetera. Tu come apri lo sportello della macchina, no? Che lui è con te a guinzaglio, aspetta che tu le togli sopra i sedili, si siede per terra davanti nel tappeto, capito? Attenzione, prego. Chi è? Io sono Antonio. Buonasera a tutti. Sì, ciao Antonio. E beh, buongiorno, ben ascoltato. Sì, vabbè, adesso qua niente. Adesso vabbè, ancora non è che vi conosciate benissimo. Adesso magari già fra un mesetto o due che vi conosce bene giocare, capito? È già diversa la cosa. Ok, avanti qua. Ehi, a positivo. Chi era che è entrato? Buongiorno Claudio. Dove sei? Con l'altra radio. Ehi ragazza, mi ciao, la passiamo anche un po', mi sei da partire, ecco qua, adesso va bene. Ah, mettila com'era, mettila, non me la faccio nulla a me. Ehi ragazza, dai. Ma lo stavo provando per vedere se girava. Già gira. E poi ho sotto il gioco, Gattù. Già va bene, già sempre una bella radio. Qual è questo, l'87? No, negativo, è Lafayette. iPhone. Ah, positivo, no, già sta andando bene, ho voglia. Sì, a capo. Non so quando sto arrivando il segnale, ma dico solo che sono attaccato. Prova più 15, sì. Con la te contare se arriva, Ocla. Prova. Ehi, non lo vai con voi, ma è più di 9 comunque. Stanno bene. No, ecco. Oggi non si travaglia. Vabbè, dopo si cazzendo, dai. E faccio scaldare un po' quel bambino. È positivo. No, io sto andando sempre bene. Adesso non ho un po' che non ti sentivo in radio. Va bene che va bene. Gappa. Ok, riprendi Claudio. Ehi. Va bene. Thank you. Allora, subito devo chiudere. Massimiliano, fare una cosa da fare. Ci siamo? Mi sto cercando il numero di Davino, che lo devo chiamare, che mi si è spenta la televisione. Appena attimino lo chiamo e ti faccio sapere. Thank you. Sento la mula tutto il giorno. Sta scherzando. Ciao Lu, buongiorno. Sì, buongiorno. Mamma mia, come sto bene qua questa radio, tu? Ma ti sento bene. Cazzo, mi vorrei fare da Luca, ma ci sono per cosa. Ah, sì. Tutto di fronte. Prato. E io anche, io sto chiudendo questa parata. Ecco, ma c'è le bande laterali anche, voi le troviamo? Però no, in questo baracchino. Vabbè, dai, allora lo provo dopo. Dai, un baracchino che mi hanno dato, diciamo, buttato in cantina, l'ho visto e gliel'ho preso. Circa, ho visto che va da 25 a 29, è stato modificato, benissimo. C'ha da C, ecco c'ha C va, bellino, è nero e non so quelle cosettine, è banda laterale, CV doppio, e vabbè, e l'ha ributtato, cazzo, questa cantina, faceva il burro, c'era mio zio, il socio, la vita, e adesso lo porto via. Ma dov'è? No, si è fatto lampato, almeno chiusa. Lo so, perché vedi prima non funzionava. C'era un filo attaccato, era mezzo riscaldato, lo stavo vedendo se funziona. Stava bellino e tanto l'ha buttato lì, allora ce l'ho io e voglio fare un regalo a qualcuno, invece regalargli il cazzo. È bellino, è tutto nero, nero, nero. Poi il microfono normale, e non è male. E appena, però dico nei garage c'è il colore nero simile a questo, adesso dopo pranzo, le attacco il coupé e gli faccio tutte e due altre, sia il superiore che l'inferiore, i due coupé, che è ritorna nuovo. Perché il contadino è perfetto, non c'è manco un grafico, qui c'è anche la staffa, tu devi usare la salute, magari c'è anche un ceduttore di quelli che piacciono a me, quelli vecchi, antichi. Adesso quello, ma che cazzo mi ha devo togliere un po' di quella roba lì per arrivarci, vabbè, che vengo aiutati, o stasera o domani. Dove dai la roba? Non ho problema. Non si parlo già. Ecco già. E il mister funziona bene. E tutto funziona bene, io quando l'ho acceso ieri funzionava, capito, bene di lusso. Però poi mi sono cercato il tasto e disse, che stavo coperto, vedevamo, facciamo l'interruttore perché era ossidata, quindi l'ho guardato e funziona. Va bene, fai giocare anche l'altro amico, non ho capito chi era, dai, ripegna tu. Massimiliano. Ehi, altro là, che devo aspettare a lanciarmi che mi devo allontanare. Luca, ciao a tutti, mi stacco, venino, provarsi che dopo rientro, là. Adesso devo fare una cosettina al volo. Ciao. Ciao. Uia. Luca. Ciao Massimiliano. Luca. Forse Luca tra poco. Così ha detto. Allora, da quel che ti serve, ma la cucina a mangiare. Io so anche cucinare, per lo so. Vabbè, io so cucinare, tutto. Tu devi solo cucinare, basta. No, pure va a creare il prodotto. Ma sono assaggio, non darci dentro. Ma se spaghetti alla matriciana, dai. Raga. Ok. Allora, ho fatto anche uno spazio a capire la frequenza amatoriale, c'è un po' di movimento, però volevo uscire perché poi sono troppo caldo a fare un giro di bicicletta e ho scritto direttino dopo mangiare, perché se fosse stato bello sarei uscito già dalle 9 per essere andato al mare, ma siccome è un tempo di merda farò il direttino dopo pranzo. Ah, sicuro, non ce l'hai qualche rometro per controllarmi? Sì, no, ma pure è caldo, devo calda. Non lo so, poi sono passato per arrivare a 50 di chilometri. Adesso ho detto verso l'Atteoce Alto. Allora, come cavolo si? La via che porta salendo e salito i lavori sul tetto. Di chi era quella tela? Di chi era? La buona anima era. Ma capito la 600? E poi si porta lì su a Castella della Torcia Mastro, da lui a quella, o la Copo, come hai capito? La via della scaletta delle poste, ti sei fatta rischiare, ha detto dietro l'ha fatto dei lavori, e poi ho notato che l'antenna l'hai buttata in terra metà le marcie, ma di chi era quell'antenna lì? La buona anima era lì, il Pugliaroro. Oh, ho capito. Io poi questo qua non mi ricordo di chi avessi mai parlato, non mi ricordo di avessi mai parlato. Ok, la chi era? Adesso doveva passare la voce. Ah, ok, va bene, non c'è problema. Ma io sono un po' di chiamazione. Va bene, ok. Oh. E quindi adesso vai a mangiare, vai a preparare. Ma pochi oggi. Sento male il bottino che la roba non si deve fare. Non neanche buttare la roba così. Quale roba? Il cereale che hai messo in terra. Ma non è la vanno appoggiata e poi lo portano via, non mica la stanno lì. Io ho già ammazzato il vagone perché ho già fatto il cazzo di gloria. Ma perché tu, ma cosa avete in questo lato? Allora. Ma quello è quello, il piatta. Allora, come va con la collega della terra, con la terra lì? Non so. Ma la so già, No, sto dicendo, visto che abiti in quel palazzo lì, non ti conviene passare tu, pigliare il capo e portare la tua casa tua. Ah, ma comunque, stavo dicendo, se tu hai fatto la stessa, ti divento la mia. Ma io lo sapevo che tu lì, a quello lì di fronte, la facciata proprio della salendo la via. Oh, conosce te, un certo fabbrico, Fiocchi, conosce te? Sei cercato. Me. Ah, Luca, ciao Luca, tutto l'altro, la cacciaputo, guarda di mugnata, saputo. Purtroppo non sono andato, non sono voluto andare. Vabbè. Allora, mi sto preparando per andare nello spingi. Ci viene a spingere il carrello, Fabri, aiuto. No, io se vuoi vengo a pagare. Io, che voglio me lo dici? Adesso perché io ci sono a piedi? Positivo. Saluto e vado a preparare a papà, dai, vado a fare qualcosa, di noi no, mangiare male due e mezza. Per onesto non devi mangiare, cazzo, devi mangiare leggero tu, no, è squisito. Cazzo, va bene Luca. Ehi, amico, sto mettendo sto andando, dai. Hai ragione, ma... Ehi, ascolta, come la mia modulazione, sto trovando un baraccino che ho recuperato l'altro giorno, è una cantina di un mio amico, ci ha ributtato, mette questo apparato, no, questo è il mio zio, qua là si demolla, adesso mi devo andare a chiamare dei ricevitori dove sono dietro dei mobili vecchi. Ascolta una cosa, com'è la modulazione, Luca? Buona, normale, va bene. Cazzo, mio microfono normale dell'apparato, poi c'è anche il micchiaging e a manetta, e il microfono è il palmare dell'apparecchio, quindi è comprensibile. Sì, a buia. È segnale. Segnale, vai. 1, 2, 3, 1, 2, c'ha 6 watt sta uscendo questo apparato. Segnale quasi 8, sì. È radio 4, non è forte la radio, ma comunque te la porto bene. Vabbè, è un microfono normale, capito, non è un amplificato, è un normale dell'apparecchio. Va bene, andate, là. Quindi se stai chiudendo fai la bravo, prendi uno o due carrelli. Sì, via. Allora, chi può contattarmi, può mandare una richiesta d'amicizia. Ah, ecco. Ah, vaffanculo. Io ho sempre bravo, Fabri. Tutti. Aspetta. Cazzo, ma stai a prendere la linea lì, mi sei soffermo. Qui da rita, Ci metti 50 anni. Ti cagnogno. E cazzo, ma c'è 50 anni, che cazzo, non puoi andare con le bambine di Facebook. 50 anni, grazie su vita. Cazzo, stai attento che tu la bambina magari va a incontrare un maschio, Va bene, mi posso buon fa. Ci vuoi venire pure tu? No, però fatti parlare. Ci vuoi venire pure tu, c'è anche per te, me. Ah, no, non ti preoccupare, tu se non sei lui, fatti pagare. Sai, io ho 2 centimetri, non è buccia di yoga, no? Se vuoi assaggiare. Sì, vabbè, ma non basta la lunghezza, devi essere cazzo sempre stretta, dai. E tutte le donne, se pure la sua tratta. Non è basta sapere la tratta, non basta che la sua tratta. Allora, vabbè, ma se ti fai fare la lavoretta, fatti pagare. Allora. Cambio, che c'è la stata in merda, nuvolosa, cazzo di schifo, la sera era autunno, la. Cazzo di primo maggio, E che festa è? Festa dei mandroni. Festa dei guardie, festa di come fa la scaglia, festa dei galloni. Ma quindi ha aperto anche città mercato? Sicuramente sì. Allora, aspetta un attimino. Cazzo, ma non mi dà la pesce a vedere. Adesso mi devo richiudo. Cioè adesso con queste 8 niente di coperchi, siccome sono fotografiati, e così dopo me le dico bene, in garage visto che c'è la fenicerera appositamente, per questo lavoro qua, ha preso il compressore di vernice, così è perfettamente nuovo. Così almeno appena occasione, se c'è devo fare qualche regalina, ma se io lo prendo glielo regalo. Questo baracchino che ho recuperato da questo cazzo di cantina. Ho buttato c'è anche dei scrittori quelli che piacciono, quelli antichi, di cui io ne ho di diversi. E faccio questo lavoretto, comprati, di vernice i coperti, non posso graffiarti. Tanto la vernice ce l'ho, il compressore ce l'ho, ma aspetta, a me rimane nuovo. Boh. Vedi un po', ma te l'ha regalato. Allora, ma non è roba sua, è roba di uno zio, non so che mi pare non c'era più, cazzo ne so, c'è questo. Io ho visto che dietro dei mobili antichi c'erano altri apparecchi, altri scivitori sopra questo cazzo di scaffale. Sono che appena arrivati devono spostare questi mobili vecchi. E poi se non ti preoccupare, già vengo io stasera domani, faccio il lavoro con la macchina e carico tutto sopra. E così vediamo gli affari. Ciao, bella qua. Ma tu non sei su Facebook? No, non è che io su Facebook sono scritto su un altro nome, su un altro cognome. Non mi interessa questo Facebook. Facebook è per bambinetti. A me non è piaciuto più cazzo di Gianna Media, roba del genere. A me piace per le persone, capito? Vabbè, se ma per amicizia, fai. Insomma. Conosci persone, quella roba, mica adesso con i bizzini, fanno pizzate, fanno di tutto, conosci, io ho qualche lavoretino anche tramite Facebook, no? Fammi qualche computer. Non mi interessa, capito? Le amicizie le faccio di persona, no? Non mi piace, ma non mi è mai piaciuto, eppure il centro mi sapere che le cerami di qualche pagina, di qualche profilo. Però non sono mai stato iscritto col mio vero nome, il mio vero cognome, capito? Io controllo gli altri, ma gli altri non controllano a me. Lo so, ma certo. Capito. Bene. Oh, io quello che risciuga, ma già ne ho più, non c'è, non ho più sentito. Cani già entra. O starà lavorando oggi. Sicuramente. No, oggi no, non credo, o forse sì, Tutta. Tempo di merda, non posso offrire, cazzo. L'ha detto qui che avrebbe fatto questo tempo di merda così. Non so se andare a pescare dopo pranzo, se uscire in bicicletta, ci vediamo. Non so, Vedi tu, bicicletta pure vai. Sempre una buca, ne ho due. Una volta un bike, una bicicletta a cosa. sempre l'avuto da sempre. Tu pensa che il mese scorso ho fatto 950 km, capito? Il massimo che ho fatto il giugno scorso ne ho fatto 1155 in un mese. Ma quando esci in mountain bike faccio il giretto a 50 km, capito? Ieri sono fatto, l'acqua, ho fatto la Budi, Porto Torres, e poi ho fatto la fino alla zona industriale, poi sono tornato indietro, ho fatto un giretto dopo Porto Torres, e poi ho fatto Balai, tutta la costa, e poi sono salito la storia, ho fatto tutto il torale, ho fatto Sotto Signori, e poi le Zaffari. Fisicaccio, io ho sempre lavorato per la resistenza, non mi interessa la palestra, non mi interessa se tu sei ingrossato, se cagate. Io ho amici che sono grossi, tutti grossi, vengono con me a fare magari allenarsi o andare in piazza a correre in bicicletta, sono grossi, perché si è allenato solo per ingrossare, però per resistenza di fiato sei zero, sei infatto. Buda, adesso vado a prendere sto capo di formaggio, c'è voce in casino, se ne è dimenticata mia madre. E ci sei dopo Fabri, dai, così, tanto faccio che gli altri entrano dopo, più tardi. A più tardi, già. Ehi, già mi ascolto sempre, anche se non è sempre, Ho detto, te lo sto controllo per vedere se vi comportate bene. Quale formaggio è, da grattugiare o formaggio intero? Allora. Hai già cucinato? Metto la padella a bollire. Adesso ti manca la bombola, classico. Adesso manca anche a te. Non è un problema, io ne aggiungo due gli scopi in garage, capito? Già non mi manca. È più facile che mi mancano i soldi che il gas. Capito? Non ti preoccupare, quando manca anche quella persona, non ti preoccupare. Non è quello il problema, capito? Non ha fatto nulla, da solo che non manca nella pena. E poi sai come funziona, sai quando ne troviamo 4, 5, 6 tiri, a decine di settimana. Se non c'è il posto giovane c'è una casa. Se non c'è il posto giovane c'è una casa. Allora, ma di che? Lo sappiamo già le tue sfide. Ma di che? Io da Uggia ne ho sceso 5. E ne è uscita ora. Esatto. Ah, io ho usato la gente. Barrato. Io le cose non le faccio. Ma che? Capito? Devi fare così, la difesa lo porto giù, ma tu gli manco. Capito? Io rientro sempre tutto vuoto, vuoto, vuoto. Ma da chiamano la voce. Da tutta la vita che ti consiglio di comprare. Allora, tanto io stiamo allenando qui, non è che io ho sempre fatto quella colore, sempre. Capito? Poi quando vai in corsa, sai, quando ne recuperiamo, ma anche a metà, tu manco ti immagini. E sono da tutti che ne vedo allora, ma tu sei un arco, e dopo sarai freddo. Calma, e cazzo, no, non è un prezzo. Ecco, un amico, ogni tanto mi chiede, faccio volere la 5 kg, perché lui c'è il campo, no? Tu sai che il campo c'è la luce per quella 5 kg. E una andiamo su questa, io sul ferro e una salva lui e ogni tanto va bene, io non glielo dico che lo faccio io, e quelli vanno a farsi riempire tanto ogni conto 10 euro, capito? L'altro giorno ho fatto 2, 20 euro. No, io sono anche le spalle, non le permetti, non facciamo a nessuno, solo personale. Ma molti lo fanno, molti fanno i soldini a quel lavoro, soprattutto in costa, truppa la terra, quando facciamo noi gli estate che fanno i soldi più di quelle grandi, capito? Quelle che la famiglia 3 kg, il motore non li trovi, capito? O meno che ma d'accordo con te, c'è un materiale, magari uno ci sono, quelle altre chiese. Allora ce l'ho, tu ce l'ho tutti i racconti, lo fa, capito? Ma fanno così, le testate tra i campi, i campi, è tutto, tutto recuperato, quindi tutti sono puliti. Ma guarda, Massimo, non sono più fratello perché non sono le frate, non mi fa, almeno qualcuno l'ha preso di passare l'ora, perché se ti metti più a fare, poi fai il conto che non ti ce l'ha mai fatta. Io adesso non sono le frate, per quello che non è. Responsabilità non sono fatto prendendo di caricare con le frate in quel momento. Vabbè, se poi non c'è lo spazio, giustamente non lo faccio, lo sai, il casino dei vicini, io sto dicendo gente che c'è il deposito al di fuori della città, dell'abitazione, eccetera, non è lo fai dentro la città o sotto un palazzo, ma cioè, questi lo fanno perché hanno il deposito al di fuori del centro abitato, è normale, no? Cazzo è, se no, hai casini e basta. Cazzo, se non ce l'abbiamo noi lo spazio, che ce l'ha? Non so se lo sai da che siamo noi, però è finissimo, non ne vogliamo più fare perché loro hanno la vita e la città la fiamma, i diritti da rifare, allora se noi stiamo rifiutando l'oceano, qualcuno la dobbiamo fare a loro, qualcuno la facciamo noi, però siccome anche hanno rotto le spalle, cioè, ci sono fatti, sono tutti pagati. No, siamo in popolazione, non se ne fa più a nessuno, solo personale. Solo roba sua personale, se vuoi, finita lì, è finito lì. Io lo so che si guadagna la parte di prima, non è, si guadagnava con le 10 euro, però non basta, non si può. Allora, quando non si può, non si può, è già tutto, sei meglio di me. Vabbè, però magari lì è così, ma rispetto molto a fare cosa è la fila. Poi ci sono quelli che fanno tutti i raccordi, anche quelle che arrivano lentamente, hanno un attacco più grande. Capita loro, c'erano tutti quegli attacchi e la fanno. Perché se uno viene un tempo, ne è mancato magari il campeggio, c'è la sua per non andare magari a comprare dei coglioni, cioè per farsi riempire. Ma ci sono quelli da maggior parte, sono tutti i raccordi degli attacchi tedeschi. Capito? E c'è gente che fa il ciò veramente. Vedete che adesso si fa un dispendio solo da quella roba lì. Ma c'è la sorta, non so che la cammina fa il rivolto. È un attacco più grande anche. Sì, hanno un attacco più grande, esatto. E poi così, lì funziona, poi c'è probabilmente casse diverse, poi sono la scossa, poi c'è le Valledoglia, fino ad arrivare a Palau, Ardanchena, San Lipione, dove tutto c'è il turismo, ci sono campeggi, lì è allucinante. Capisci un po' di Palau che fai il suo chiamato di immagine tu, ne fa 20, 25 al giorno. I campionisti, ha fatto poi velocità, lo fanno lì. C'ha tutti i raccordi, ha procurato, e lui fa di fare, ecco. La strada viene il tedesco, diciamo, e quella 5 kg, però con l'attacco grande, sempre attacco tedesco. Ha riempito, da quanto è 15 euro, ok? Però non si chiama, così tu lo sai benissimo, quel cazzo. Ma dai, sì, vabbè, tutto non si può fare, tanto i discorsi sono, però si fa, è normale, no? Senso non è che anche quello ci va a pensare, cioè non è più il bene più di 50 ricchi, ma poi bene più di 300. Ma sai che quei soldi che spesso non puoi fare, però basta mettergli fuori quasi 10 volte di più, e poi lo fa. Devi rischiare e fa, cose che non si può fare, eppure ce le fa. Magari non si può, non tutti non facessero quello che si può fare, siamo tutti felici. Il problema è quello, cioè, mi ha avuto a casa, stata corretta, la decisione di liberazione per le persone in corpo sociale. E parlo tutti questi, passa la gana di fare questo. Quindi la foto morale è la sua, quella è quella che recupera, quindi le prendo, la comunità di questo personale. E tutto questo discorso. Per cui erano così, avevano solo fatto tutta la letteratura per i controlli. Lo so, era a periodi qualcosa, ma l'input è partito dai controlli. E vabbè, non lo devo fare, purtroppo è così. Vabbè, là, ci lascio, adesso devo fare una cosettina, sentiamo le 9:30, ci sentiamo, stanno bene, per la prova mangia poco. Oh, ci sentiamo, ciao.